questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E la terza ora del sabato del villaggio diventa Radio Tube. Siamo qui, Daniele. Ciao a tutti. Ciao Marta, ti sei ripresa dagli stravizi sanremesi, dallo stralavoro, dalle stracanzoni? Ripresina. Cioè? Non sei ancora totalmente ristabilita? No, nel senso che non ho ancora tutta la voce, non sono proprio... Ma sai che non è stato solo Sanremo, cioè non è stata solo la settimana di Sanremo. Ci sono dei postumi. Vuoi sentirli postumi? Eccoli qua. Lezione di Nirvana, c'è Butterfly Indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. È che come tutti gli italiani ho passato tutta la settimana a ballare occidentali scarma. Allora... possiamo dire a Francesco Cabani che già non ne possiamo più, perché tutti... Ma sai che è successo qualunque cosa? Noi non possiamo mandare i video degli audio di questa canzone. Sì, perché ce ne sono tanti in rete, ma in realtà non hanno degli audio. L'avvocatessa, poi nelle ricevitorie, alle edicole, tutti che ballano e cantano questa canzone. Sai che ho visto quello che mi hai mandato tu, che a Bordighera fanno occidentali scarma, no? Sì. Mi è tornato in mente quando c'era la moda di Happy, del video Happy, che lo facevano in tutte le città. Adesso faranno occidentali scarma in tutte le ovunque, città. Ovunque, ovunque. E allora, c'è il grande dibattito se è profondissima, intellettualissima, piena di citazioni, oppure è facilissima, poppissima. Insomma, valgono tutte e due. Ma c'è solo una canzone, c'è solo una musica che uno può detestare di più per quanto si sente. O amare, chi lo sa, amare. Eccola qua. Vabbè, insomma, a un certo punto comincia. Forse era questa quella di Bordighera. Insomma, ne ho viste talmente tu tante. Tu l'hai ballata a Sanremo come insieme. Roberto Pavanello, collega della stampa. Tu l'hai L'abbiamo ballata. Preso in giro tantissimo perché c'era Sven, il ballerino della... ormai lo sanno tutti, il ballerino della team. Di una nota marca di telefonini. Di una nota marca di telefonini che ha fatto il di simbolino di telefonia, che ha fatto il simbolino sull'hashtag di Twitter che ha fatto litigare tanto, lo usiamo, non lo usiamo. Passato. E tanti giornalisti hanno fatto il tutorial per come si ballava, anche il nostro amico che abbiamo... Che preso poi alla in fine giro tanto. Non è così difficile il balletto, cioè è difficile farlo bene. Sì, è perché lui è veramente snodato. Esatto, come un... esatto. Però tutto sommato sono 2-3 passi. Certo. Quindi ci si poteva cimentare. Anche Filippo in regia voleva cimentarsi sul balletto. Si vede già Christian. Christian ci ha provato, sì, ma Christian è più bravo. È snodato, lo vedo a giovane atletico. È più bravo su occidentali scarma. Comunque, il momento più bello eletto dalla rete di Sanremo. Qual è stato? È stato questo. Il caso non ti ha fatto fare la finale, ma guarda chi ti aveva fatto l'imbocca al lupo, gli auguri, il grande Checco Zalone, guarda. Ciao Albano, è un onore per me fare l'imbocca al lupo al personaggio che è probabilmente il secondo pugliese più importante d'Italia oggi. Sei forte, canti bene, sei ancora attraente, tu non sei Albano quante mie amiche vorrebbero essere tue ex mogli per gli alimenti, perché Albano paga gli alimenti, non come a Pippo Paolo. Ti auguro tutto il bene del mondo, ti auguro di arrivare quinto, sesto classificato, perché di più... Cazzo, guarda. Anche perché diciamolo, le classifiche a Sanremo sono un po' come fare l'amore, chi arriva prima sconfitto. Ciao Carlo Conti, ciao Maria De Filippi e tutti gli altri cachet in ordine decrescente. Vabbè, cioè, infatti è l'unico messaggio che hanno comunque trasmesso anche di quelli eliminati. Sì, pensa alla sfiga, no? Era pensato che avevi Checco Zalone che lanciavi. Siccome questo è il Sanremo della televisione, cioè, più che delle canzoni, come sai, la mia tesi. Questo viene eliminato Albano e allora loro lo mandano lo stesso. Sì, tra infatti, l'altro a un'ora, credo che sia andato in onda alle 8 della mattina dopo. Beh, perché Albano ha preso il premio del miglior arrangiamento, sì, arrangiamento molto tardi. Vabbè, tutte le polemiche, qualcuno dice il festival della rottamazione perché i grandi vecchi Albano è stato eliminato, la Mannoia non ha vinto. Non, beh, non, è arrivato a secondo, a parte che non è vecchia, appunto. No, non è una questione, cioè, anagrafica, i grandi maestri, ovviamente. Esatto, sì. I grandi, Ron i è stato eliminato. Ecco. Esatto, Ron è stato eliminato. Beh, insomma, Zarrillo all'inizio era stato eliminato. Insomma, vabbè. Poi ma non... mi sa che ne parleremo ancora tanto dopo di Sanremo. Però allora, questa settimana tu sai che cos'è? Allora, tu che sei di Vimercate, sì, sai che cos'è la cazzimma? Che è una roba difficilissima da spiegare e definire. Vabbè, ma io sono vicina di scrivania di Annarita D'Ambrosio, che è napoletana doc dei quartieri spagnoli. Dobbiamo chiamarla per sapere. Io sono vicina di banco di Annarita D'Ambrosio dei quartieri spagnoli, quindi lo che so. Che ti ha spiegato che cosa intendeva il presidente De Laurentiis. Sentilo. Questa sera ai ragazzi si è mancata la cosiddetta cazzimma napoletana. L'unico che ha dimostrato di averla è proprio un napoletano che Insigne, che di intelligenza ha fatto un gol meraviglioso. Gli altri non esistevano, erano come bloccati di fronte evidentemente a questo mostro sacro che è il Real Madrid. Vabbè, insomma, però dunque, con un certo aplomb, sì, mi parla di cazzimma. Mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, comunque un presidente che dice che uno... Vabbè, ma comunque, problemi di Sarri, l'allenatore. La cazzimma è quella specie di, non so come dire, rabbia, un po' di acido, qualcosa di acido, però anche grinta. Certo, un che po' però fastidio. Ha anche dei risultati positivi. Sì, comunque se voi sui social lanciamo hashtag cazzimma, spieghiamo all'Italia che cos'è la cazzimma che intendeva, cosa mostri, che intendeva il presidente De Laurentiis. Allora, invece vorrei chiudere questo primo blocco, prima del traffico, con un altro personaggio, perché visto che abbiamo spiegato qualcosa di napoletano, cioè, sai qual è il romano invece della settimana? È un tassista. Ah, io pensavo a Nainggolan che ha detto no, io odio la Juve. No. Invece no. Un tassista che è stato protagonista all'Aria che tira con Mirta, sì, Merlino, che ha avuto dei momenti difficili a governare questo straordinario tassista che secondo me diventerà un personaggio. Faccio rispondere Simona Malpezzi, Partito Democratico, perché ho il sospetto che il partito... Ma per carità, manda al cinema quella! Deve andare al cinema, deve parlare! Che partito è questo? Ma lo devi spiegare! Da chi risponde sto partito? Alle logiche del popolo? Ce lo spiegherà Simona Malpezzi, Cesare! Che palla parlare? Tanto a me non mi interessa quello che dice la Simona! Vabbè, a me sì, la io sento io, allora non ti preoccupare, me la sento io Simona Malpezzi, va bene. Non è esattamente così e penso che Cesare lo sappia perché... Lo sapevo io. No, Cesare, io guarda. Ma hai fatto la domanda, te devo rispondere. Cioè, se no parli te. No. Hai fatto la domanda, la poi domanda che te do la risposta. Però precisa, ci ho detto cosa cambia al momento. Te lo dico Cesare, io cosa cambia. Cesare, cambio, lo oggi fare al cinema, quindi non ha più bisogno della licenza. Lo chiama Verdone sicuramente dopo stamattina. Va bene. Allora, che t'avevo detto io all'inizio? Che era una trappola. No. Perché questi, con le chiacchiere... Vabbè, insomma, lo chiama Verdone sicuramente. Allora, ospite molto pittoresco, la povera Merlino sapeva più cosa fare perché questo ti si mangia tutto. È un tema caldo, giusto prima del traffico. Giusto prima del traffico. È un tema molto caldo che ha trovato un nuovo leader così carismatico. Accidenti. Allora, traffico, poi ci ritroviamo insieme per parlare di rete. Di rete, di parole ostili. Noi siamo qui Trieste, nell'aria. Un tema tosto, un tema interessante, tra pochissimo. Perché molti dicono, ma è un mille proroghe, ma sti cazzi del mille proroghe, tu lo vai chiamare. Radio Tube. Io non sono mai stato iscritto neanche ai Boy Scout. Mai avrei pensato di fare il leader di un movimento politico. Eppure è successo, non so come mai, ma io devo dirvi la verità. Io scherzavo. Non volevi venire? No, non vengo. No, non mi piace, ma uscirai di qua che mi abbraccerai. Quando mi dicevano lei non deve dire questo, uscivo, ma detto di non dirlo questa cosa della P2, ti faccio un pezzo sulla P2. No! Ma questo è il trailer di uno show di Netflix, no? Sì, però è anche un leader politico, ma forse scherzava, però è anche un uomo di televisione, sicuramente un uomo della rete, era Grillo che va su Netflix. Sì, che va su Netflix, a proposito di video virali, un aggettivo che a me non piace ma che fa capire bene la cosa, questa settimana io ogni volta che aprivo un video di YouTube avevo comunque come questo, pubblicità che vuol dire che funzionava. Allora, nel cortocircuito, l'ho detto giusto? No, mica tanto. Cortocircuito tra televisione, politica e rete, è successo che si discute molto di post verità, del fatto che la rete aggrava i toni, moltiplica gli insulti, fa arrabbiare le persone. Insomma, la politica, la televisione e la rete si sono incontrate e spesso scontrate. In questi due giorni, venerdì e sabato, a Trieste c'è stato una grande manifestazione, un convegno con la presentazione di un manifesto che cerca di affrontare proprio questo tema: le parole ostili e la rete. Le parole ostili e il giornalismo, le parole ostili e la politica. So che ci sei stato anche tu, caro Daniele. Esatto, ma non parlerò io perché abbiamo la fortuna di un ospite, di avere un ospite molto più interessante da ascoltare, proprio perché svolge un ruolo di governo, di amministrazione di una città. È un grande esperto, è stato un importante manager della televisione italiana e ha anche un ruolo politico, essendo il sindaco di una città importante come Bergamo. Lo presenti tu? Ho io l'onore. Vai. Allora, il benvenuto a RadioTube al sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buonasera, ormai a quest'ora non si capisce più, sono orari un po' strani, sta arrivando la primavera. Allora, parole ostili, intanto le chiedo che cosa le è venuto in mente quando le hanno detto questa espressione, parole ostili. Prima me l'hanno detta al telefono prima e ho dovuto farmi spiegare esattamente che cosa avessero in mente, poi la grafia del titolo di questa iniziativa gioca su parole ostili, sì. Quindi ha una specie di doppio significato. Però insomma dice abbastanza chiaramente che ci siamo occupati in questi giorni a Trieste di violenza sulla rete, di violenza verbale, che è una cosa che obiettivamente è esplosa in questi ultimi anni, che è diventata un problema perché sempre più spesso vediamo che le persone non si tengono quando dialogano sui social network, quando si rivolgono ad altri che non la pensano come loro, e spesso, troppo spesso, riteniamo, usano l'offesa, l'ingiuria come strumento di comunicazione. Allora, un gruppo di persone molto esteso, poi io non sono stato il primo, ovviamente il promotore di questa cosa, sono stato a mia volta coinvolto, non mi sono fatto coinvolgere volentieri, si sono mobilitate per cercare di mettere un segnale di alt a questa cosa. Poi ovviamente non sarà facile, non sarà immediato riuscirci, però secondo me che ci sia una reazione, che qualcuno dica che così non va bene, è già un fatto interessante e positivo. Si parla da tempo di una distanza tra i cittadini e la politica. Quanto secondo lei è un problema di comunicazione, di parole, di linguaggio? Questa settimana, per esempio, non so, il segretario del Partito Democratico si è lamentato del fatto che lui, come dire, finisce sempre nei pastoni, liberatemi dai pastoni, ha detto, no? Come se ci fosse il linguaggio della politica troppo distante dai cittadini e questo possa creare quel fenomeno che ormai tutti definiamo persino troppo spesso populismo. Quanto è un problema di comunicazione? Non credo che lo sia tanto, francamente, perché io ho un ricordo di quando la politica usava un linguaggio molto diverso, la politica della Prima Repubblica, quella che andava in onda a Tribuna Politica, che molti vostri ascoltatori ricorderanno, si esprimeva nei dibattiti, nelle interviste, eccetera, usava un linguaggio molto, ma molto più lontano da quello della gente comune di quanto oggi non accada. Oggi succede esattamente il contrario, cioè che la politica vuole rendersi simpatica, rendersi vicina ai suoi interlocutori, ai cittadini, e usa un linguaggio corrente, a volte corrivo, tant'è che secondo me una delle ragioni di questa deriva così di volgarità e di violenza nella rete va trovato nel cattivo esempio, obiettivamente, che la politica spesso dà. Cioè è difficile chiedere ai cittadini, agli utenti dei vari social network, di comportarsi bene, di essere educati e gentili con le persone con cui dialogano, quando i politici tra di loro sono invece ogni giorno molto aggressivi e violenti. E quindi questa cosa, secondo me, che segnala un eccesso di vicinanza, se volete, è anzi causa di un problema. Eccesso di vicinanza, non ci sono più filtri perché chiunque può rivolgersi direttamente a un politico che stia in rete. Da una parte c'è appunto questa assenza di filtri, dall'altra c'è una sorta di rabbia condivisa. Lo abbiamo visto anche, ad esempio, abbiamo parlato del Festival di Sanremo. C'era della rabbia nei confronti del povero Carlo Conti, violentissima. Ci sono scatenate delle polemiche. Ma perché tutto questo sentimento, appunto, io lo definisco di rabbia, di scontento, di voglia di accusare e di attaccare in rete il personaggio pubblico o il politico, che a questo punto si deve difendere? Quando sta in rete così si esprime in questo modo, per tante ragioni, credo. Certamente il fatto di essere non a contatto con il destinatario dei loro messaggi, ma in qualche modo protetti dalla distanza digitale, dall'anonimato, dal nickname, crea un senso di impunità per cui uno dice delle cose che poi di persona probabilmente non direbbe mai. E questa è una considerazione. La seconda è che noi diamo colpa alla rete, ma dobbiamo interrogarci anche di quello che sta fuori. Già lo dicevo con riferimento all'esempio, al modello che la politica dà ai cittadini, ma in generale penso che il livello di violenza, di intolleranza, di maleducazione di cui ci dobbiamo preoccupare stia innanzitutto fuori dalla rete, nella vita reale, e ci ponga degli interrogativi, insomma, anche più importanti di questi, perché probabilmente abbiamo un po' trascurato nell'educazione dei nostri figli di ricordargli alcuni precetti. Ovviamente c'è disagio, ovviamente c'è scontento, ovviamente c'è malessere, c'è povertà che induce rabbia, ci sono tanti fattori comprensibili di carattere sociale, ma tendo a pensare che ci siano stati anche in altri momenti della nostra storia recente, non soltanto oggi. Il di più è che si è tirato via il tappo, si è legittimato uno standard di comunicazione che invece verso il quale le persone avevano un po' di freni in passato. E la rete in più aggiunge un aspetto, secondo me, che provo a spiegare così. Normalmente nelle nostre relazioni noi reali tendiamo a confrontarci con persone che hanno anche delle opinioni diverse dalla nostra, e quindi diciamo che la comunicazione è un dire, è un ascoltare, un confrontarsi, eccetera. Talvolta è un po' una sfida anche se abbiamo di fronte qualcuno che non la pensa come noi al nostro modo di pensare. In rete succede invece che ognuno tende a ricostruire attraverso i meccanismi di social network un universo di persone che tendenzialmente la pensano come lui, sono i nostri follower, sono le persone di cui noi siamo follower o amici, e questo crea un meccanismo di separazione da chi non la pensa come noi, e rafforza delle logiche che io definisco un po' da branco, cioè quando siamo in mezzo ad un gruppo dei nostri pari che ogni volta che diciamo una cosa ci mandano un like o ci battono le mani, quando se la diciamo più grossa ci mandano il doppio dei like, tendiamo secondo me ad esprimere non esattamente il meglio di noi. Eh sì, è l'effetto curva da stadio applicata alla rete. Però la soluzione per un politico non è quella di chiamarsi fuori dai social network, non è più possibile. No, assolutamente, io ho visto, insomma, in questi anni, in questi ultimi mesi, alcune persone esponenti del mondo della politica che hanno avuto veramente l'istinto, non solo della politica, devo dire anche del mondo dello spettacolo, del giornalismo, che a un certo punto ha detto basta, io insomma di star lì a prendere insulti la mattina e la sera non ne posso più. Devo dirvi, succede anche a me di prendere insulti, non è che io sia immune, anzi. Però non credo che sia una buona idea quella di chiamarsi fuori. Non ho delle ricette, ovviamente. Questo nostro incontro di Trieste ha provato a declinare alcune possibili linee di lavoro. Una che ho già citato è quella dell'educazione, fatalmente, che riguarda il mondo online ma anche il mondo reale. Una è il diritto, perché qualche volta forse si travalica anche proprio il limite di ciò che è legalmente consentito. Un'altra è la tecnologia. Per esempio adesso c'è tutto un lavoro attivato dalla Commissione Europea con i grandi gruppi, i giganti della tecnologia, i vari Google, Facebook stesso, Twitter, eccetera, per dettare delle linee guida che possono consentire a queste aziende di attivarsi per cercare di porre dei freni, di rimuovere, quindi con base a dei criteri condivisi, ciò che eccede obiettivamente la libera espressione. E poi c'è un modo in cui ognuno di noi può provare a bonificare le relazioni online. Io qualche volta ci provo a rispondere anche a chi mi tratta male, altre volte confesso che se mi sembra che veramente sia un'opinione così preconcetta e violenta, semplicemente abbozzo e non rispondo. E si guarda oltre. Grazie al sindaco di Bergamo. Grazie al sindaco di Bergamo. Arrivederci. Buon lavoro anche su questi temi. Grazie mille. Daniele, Marta, noi una brevissima pausa e poi abbiamo un super ospite sanremese. A tra poco. Radio Tube. Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento. Un'altra volta indietro e ritrovarmi nudo e ritrovar la voglia di riempire ogni vuoto e fare tutto di nuovo un attimo dopo. E adesso vorrei sapere come sarebbe il mondo se tutto quanto fosse spostato di un secondo. Adesso ti vedrai scegliere di restare e invece te ne vai e io ti lascio andare. Allora, io ho passato tutte le serate del Festival di Sanremo a usare lo stesso hashtag, che non era solo quel famoso Sanremo 2017, ma era hashtag Team Masini a prescindere. Devo confessare una cosa al nostro ospite qui in studio. Sì. In un intervallo di una trasmissione pre-Sanremo, io ti ho chiesto fuori onda, sì, ma non so, dimmi delle cose che ci sorprenderanno, e tu hai detto... Occhio alla... Avevi detto anche quello che io ha vinto. Io avevo detto Gabbani e Marco Masini. È vero o no che l'avevi detto? E continuavo a ripetere: ah, le mie due preferite sono Turci e Masini. E lo dico ancora: le mie due preferite erano quelle di Paola Turci e quella di Marco Masini. Ciao Marco, grazie, benvenuto. Grande. No, grazie. Fantastico. Allora, questo pezzo è pazzesco. A me, allora, la prima sensazione, la sensazione che ho avuto quando l'ho sentita la prima volta, un mesetto prima di Sanremo, è stato coraggioso, sì, perché è stato uno dei pochi, lo dico ancora alla fine di tutto, che ha avuto il coraggio di fare qualcosa di nuovo, di sorprendente. Sì, di sorprendente, perché andare a Sanremo e fare ancora qualcosa che ci si aspetta da un cantante da una carriera lunga e ricca come Marco Masini è un po' banale. Tu, banalità niente. Ma ti ringrazio, io mi sono un po' raccontato, sai. Sono passati tanti anni, 28, da quando ho iniziato a fare la carriera del cantautore, quindi è normale, anche se poi la mia musica era nata prima, perché io vengo dagli studi di registrazione, dalle cover band, quindi io ho fatto tanta musica soprattutto nell'età dell'adolescenza, ma mi è sempre piaciuto cercare di sperimentare anche attraverso sonorità che vengono un po' da quegli anni, gli anni 80, quando si iniziava a scoprire la musica elettronica stessa, no? Che poi oggi ha delle possibilità infinite grazie al computer, grazie ai virtual instrument, una serie di cose che danno l'accessibilità a tutti. Ma anche da un punto di vista letterario mi piaceva cercare di raccontare quello che sono adesso dopo un vissuto e non costruire qualcosa per andare a un festival della canzone. Volevo essere me stesso, volevo cogliere l'occasione per raccontare a tutti quello che sono diventato in questi anni. C'è in Spostato di un secondo il pezzo, ma anche nell'album, un po' in tanti brani, una sorta di bilancio di un uomo che si guarda allo specchio e dice: ma vediamo fino adesso com'è andata. Hai fatto così? Sì, beh, più che un bilancio è un'espressione, è un concetto, una voglia di raccontare la mia vita, che è il sistema migliore per raccontare quella degli altri, nel senso che poi alla fine l'autobiografia è il trucco, no? Il sistema più veloce per scegliere la strada più breve. e l'ho fatto in 11 canzoni. Poi dentro c'è anche Signor Tenente, che mi ha dato una soddisfazione immensa lì su quel palco poterla riproporre, perché era una canzone che era stata messa un po' troppo in soffitta e non era più stata riconsiderata. Non è una canzone che senti nei karaoke o che senti in radio o che suoni sulla spiaggia, per dire. Eppure è una canzone che ha scritto una pagina importante dell'attualità cronistica, ma anche della musica italiana. Quindi quella era l'occasione per rifarla. Marco, io lavoro nella redazione qua sopra del sito del Sole 24 Ore, e tu devi sapere che io ho parecchi musicisti dentro la redazione, tra cui due bassisti, tra l'altro, che è stranissimo, due bassisti, che tra l'altro basso grazie a Keanu Reeves, se non mi ricordo male. Allora ho chiesto, ditemi Marco Masini, che cosa vi viene in mente? Mi hanno detto, intanto i musicisti hanno detto Alla Grande, e poi mi hanno detto Verace, Vivace, Un Po' Tormentato. Ti ritrovi? Ma sai, il tormento fa parte anche di un percorso, no? Nel senso, io all'inizio sono partito raccontando le cose della vita e credo che ancora lo stia facendo, ovviamente da punti di vista diversi, perché quando hai 20 anni, certo, poi vedi la vita in una certa maniera, la vita stessa è in una certa maniera, quindi tu ti devi rapportare a quello che è uno stato d'animo, un inserimento sociale e tutto quello che ti gira intorno. Poi ovviamente senti che quello che tu pensi e che racconti viene sposato da molti della tua generazione, anche da più giovani, e quindi ovviamente cerchi di dar voce anche loro. Poi erano gli anni più tormentati davvero, dove perdemmo un po' tutti i nostri punti di riferimento, perché negli anni 80 hanno cominciato un po' a sperperarci i soldi, poi negli anni 90 ce l'hanno portati via definitivamente, gli anni di Tangentopoli, quindi riferimenti politici, ideologie, tutte sparite nel nulla, gente che scappava a destra e a sinistra, quindi un giovane ovviamente si è ritrovato davvero solo. Io ho cantato momenti di smarrimento, non solo politico ma anche esistenziale. Malinconia, vabbè. Poi tutto è cambiato, ripeto, ho fatto un percorso. Vivace, Verace è uguale, sì, ti convince? Sì, beh, assolutamente, Verace sicuramente. Vivace, quest'anno ho portato una cosa che forse, ripeto, ha bisogno di più ascolto, perché non è una cosa, la classica ballata da Sanremo, quindi c'è dentro una vivacità che prende quota nell'inciso, ma anche a livello musicale mi sono divertito molto. Marta, me la fai fare la domanda, quella appunto, visto che dice questa cosa qua, quella che... Ma non è che ho questa paura. No, perché io ho questa teoria. Abbiamo litigato io e Bellasi. Allora, io ho questa teoria, chiedo scusa, tanto ormai è stato un successo planetario, ha preso il 60% di share, si può dire una piccolissima cosa critica. Non è che le canzoni quest'anno si sono un po' perse nella perfezione televisiva? Del resto anche il cantante che ha vinto, per carità, grandievo, originale, tutto quello che si vuole, era una canzone molto televisiva, c'era una scimmia che ballava sul palco, e se non era televisiva. Non è che nella perfezione televisiva un po' le canzoni ne hanno perso? Scusa se faccio una domanda magari un po' polemica. Ma non lo so, io dico solamente che ovviamente per realizzare una cosa che oggi fai, per la maggior parte dei casi anche con l'aiuto dell'elettronica, quindi ovviamente ci sono dei dettagli da sistemare e tutto, secondo me si è perso un po' di quella che è l'istinto, no, del musicista che suona, perché bisogna andare dietro a 2000 cose. Io stesso mi sono trovato in difficoltà, perché io e i coristi dovevamo in qualche maniera pronunciare la stessa frase nello stesso istante, e quando si parla di umanità, questo lo sai che è difficile, quando si parla di macchine invece è un'altra cosa. Quindi un po' la macchina ha cercato di fare da padrona, da condurre un po' l'orchestra, di conseguenza credo che abbia in qualche maniera anche condizionato i registi per cercare di dare qualcosa in più, visto che la macchina apportava qualcosa di nuovo, anche la regia doveva farlo. Hai citato Signor Tenente, io te lo devo dire, te l'avranno detto, prima della tua esibizione, quando è stata annunciata, in sala stampa c'era silenzio e attesa, e te lo aspetterai, sai, quelle facce da chissà cosa ha fatto Masini, questa canzone non si può toccare, in tanti dicevano che era un pezzo che non si poteva toccare. A metà del pezzo c'è stato un applauso in sala stampa, che non è proprio generosa di applausi la sala stampa dell'Ariston. Siete severissimi. Sì, siamo severissimi, un po' per posa, un po' perché ci tocca, dai, un po' per posa, un po' per mestiere. Ci ha commosso, ci ha stupito, e anche lì te la sei rischiata tantissimo, Marco. Molto. Ma lì sono andato contro tutti, nessuno mi aveva dato l'autorizzazione, neanche Carlo, te lo dico sinceramente. C'è stato all'inizio, gli ho detto, guarda, io sento questo... questo momento. Eravate amici tu e Giorgio? Eravamo molto conoscenti, nel senso non abbiamo raggiunto l'amicizia, quella che veramente diciamo l'uno dipendente dall'altro come due amici, ma abbiamo convissuto un momento importante. Lui mi ha trasmesso in quel piccolo momento breve che è durato qualche mese, ma poi è rimasto anche poi attraverso insomma un contatto. Abbiamo condiviso molte cose, io sono riuscito a musicare un suo testo che poi a lui non è piaciuto, ma io sono convinto. Sì, vabbè, ma questo. Ma capitano queste cose. Beh, un grande che lo dici. No, ma è vero. Poi, però, a me io sentivo quella si chiamava Gli anni che non hai, che tra l'altro è dentro un mio album precedente. Quindi, però poi ci siamo confrontati e poi c'è stato un grande momento quando lui mi ha dato dei consigli durante un allestimento di un tour all'Isola d'Elba, dove lui è alla casa. Quindi ci sono stati momenti dove lui mi ha trasmesso tanto coraggio, tanta imprevedibilità, tanta forza nel rischiare, no? Ed è stato lui in sostanza che mi ha fatto prendere questa decisione, perché per me, sai, sarebbe stato forse più facile prendere una canzone al pianoforte e farla in maniera normale. Certo. Invece lui mi ha dato il coraggio della sfida e io sono sempre stato così, ho sempre cercato di sfidare un po' me stesso. Anche negli anni 90 ho cercato di andare oltre quelle che erano i cliché dello standard regolare della scrittura di un pezzo, addentrandomi anche in certi ginepri rischiosissimi, come quello di Vaffanculo nel 93, che comunque all'inizio fu censurato completamente, non fu capito, e poi invece le radio facevano a gara. Pensare per all'attualità politica successiva di quello che è successo, sì, rispetto a quella, sì, canzone. Vabbè. No, ma nel senso che nella musica, secondo me, abbiamo un potere di comunicazione incredibile, abbiamo la possibilità di arrivare a tanti, e a mio parere ci fa bene rischiare, ci fa bene mettersi alla prova sempre, non vuol dire niente se hai 20 anni o se ne hai 53. Ma tornare a Sanremo dopo averne vinti è più facile o più difficile? È più facile, perché non pensi a vincere, perché non te ne può assolutamente importare niente, perché tanto vai perché ti vuoi raccontare, perché vuoi fare la tua cosa, preferisci sorprendere che vincere, nel senso preferisci comunque far capire quello che sei e non prestare il fianco a quella che è una strategia più discografica, quindi una strategia più anche se vuoi scontata, quella di costruire una canzone per il festival. Io non ho costruito questa canzone per il festival, a Carlo gli dissi: ma per la canzone che più mi rappresenta dell'album è questa, e lui disse: ah, bella, ma non è festivaliera, e che te frega, il pezzo è bello, fallo. Quindi è successo questo. A Carlo gli è piaciuta davvero, però anche lui gli è piaciuta al secondo, al terzo ascolto, nel senso che poi mi richiamò 10 giorni dopo per dire che la canzone era veramente bella e che avevo qualche probabilità di essere chiamato al festival. Perché poi lui non lo dice mai, lo dice in diretta. No, non l'ha mai detto, ha dato assolutamente nessuna sicurezza, perché tra me e Carlo, anche se esiste un'amicizia di 32 anni, è giusto che il lavoro abbia un percorso indipendente, senza mischiarsi assolutamente con quelle che sono le nostre scene e anche l'accento un po' in comune, anche diciamo, la squadra, se vuoi, anche la squadra, è vero. Io prima ho confessato a Marco che tu sei interista e sì, forse non voleva più salire a fare l'intervista, le dico solo no questo. Ma guarda, in quanto anti-juventini siamo praticamente fratelli quindi. Ma di anti-juventini ce ne sono tanti, però bisogna riconoscere che la Juventus ci sta smettendo tutto. Certo. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure Terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Radio Tube. E siamo ancora insieme a RadioTube, ancora in compagnia di Marco Masini. Minchia. sia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo, che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise, che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. Siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto noi guardiamo la realtà spesso attraverso, in realtà la guardiamo in questa trasmissione solitamente attraverso lo sguardo della rete. Una delle cose che hanno più fatto scalpore sui social network era il tuo look. In parte un figo pazzesco, posso dirgli, un figo pazzesco. Però ti sei inventato un look particolare, un no, po'... non me lo sono inventato, non me lo sono inventato. Non mi sono alzato una mattina e ho deciso di vestirmi così. Sai, vero, che qualcuno diceva: ah, Masini è diventato hipster. No. Ah, la roba dell'hipster. Sì. Che a te sta simpatica per via degli occhiali che scegli. Per lei è un po' hipster, quindi vuole dire questa cosa. Ma no. No, allora, gli occhiali me li metto per forza, senza non vedrei nemmeno il microfono. Anch'io. Quindi rischierei di parlare da un'altra parte. No, ma è una cosa che è cresciuta piano piano. Io sono 2 anni che comunque porto la barba un po' lunghetta, poi me la sono fatta crescere definitivamente. A un certo punto ho sposato un po' la filosofia hipster, ma per un discorso proprio mio di moderata anarchia, che mi fa sentire un po' più libero. E poi l'ordine inglese, che comunque a me piace tantissimo, perché sono sempre stato ordinato. Se tu vieni a casa mia c'è un ordine incredibile, non potrei mai lasciare 2 calzini in terra prima di andare a letto, devo assolutamente metterli al sudicio. Ma questo è proprio quindi questa cosa si è anche un po' ripercossa nella tenuta della barba, nella pettinatura, nella bretella, piuttosto che sull'eleganza, perché comunque mi sembrava giusto. Arrivo dagli anni 90, dove insomma venivo un po' classificato paninaro, no? Per arrivare fino al 2017, dove ho 52 anni, quindi qualche responsabilità in più arriva, e con le responsabilità anche l'ordine ha il suo valore. Nella lettera Chi sarai, nel cosa frattempo metti? Si riempie la regia quando sì, noi abbiamo queste, vabbè, ok, niente, non ci viene a seguire mai nessuno, arriva Marco Masini, guarda come esatto. Si riempie. Va bene, nella lettera Chi sarai cosa metti dopo questo Sanremo? Ma una esperienza grande e educativa, perché ho conosciuto veramente ragazzi che non mi aspettavo di conoscere. Uno di questi è Herman Meta, che con il quale abbiamo condiviso una cena, abbiamo fatto tante chiacchiere un po' su tutto, soprattutto sulla musica, un ragazzo molto preparato. Altre cose che ho visto lì, ragazzi impauriti che avevano bisogno di un mio consiglio quando magari anch'io ero teso, perché sai, ripeto, più l'elettronica va avanti e più deve funzionare tutto, quindi la prima paura di un musicista e di un artista che monta su quel palco è: funzionerà tutto come ha funzionato durante le prove, perché ci sono tante cose da seguire. E poi, ripeto, un'atmosfera che, a differenza magari degli anni 90 o dei primi anni 2000, un'atmosfera basata proprio più sull'aggregazione, forse un'atmosfera contagiata sicuramente dai talent. Ah. Che cosa pensi di questo? Vabbè, ormai fanno parte... Penso che sia il futuro della musica, e sia... ormai gli spazi musicali si sono ristretti tanti, quindi a parte piccoli spazi che però non sono, diciamo, di profilo o di profilo musicale o di profilo artistico, ma sono spazi che tu vai a rubare, un po' come quando si va a cercare il palasport per fare un concerto, e il palasport l'hanno costruito, certo, per lo sport, se no si chiamava palamusica, quindi di auditorium non ce ne sono tantissimi, e questo vuol dire che il talent alla fine è una forma di arrivo immediata che, se hai la fortuna di conquistarti, ti può dare la possibilità di farti conoscere. Io non sono assolutamente contrario, sono favorevole, perché ripeto, se abolisci il talent dovresti in qualche maniera sopperire la mancanza del talent attraverso degli spazi nuovi che tu costruisci in tutte le sedi televisive per poter dare spazio ai giovani. Certo. La musica dei giovani è la cosa più importante. Certo. Marco, ti faccio una domanda un po' prosaica, te ne fregava qualcosa della classifica di Sanremo? No, è chiaro che se arrivi primo è meglio che arrivare ultimo, questo è normale. Questo è normale. Un po' alla catalana. Ma quello è catalano. Però ripeto, non ero assolutamente, nella mia mente non c'era il podio, nel senso sono strafelice di aver conquistato il podio con Signor Tenente, perché l'ho fatto veramente con un po' contro tutti e un po' con grande rischio, quindi sarebbe stato brutto e avrei fatto fare una brutta figura a Giorgio, e questa cosa mi sarebbe dispiaciuta tanto. Non avrei voluto tirarlo in ballo in una situazione brutta e come dire scomoda, ma per il resto va benissimo così, perché mi sto raccontando, perché ripeto, perché questa è una canzone che ho fatto per me, per continuare un viaggio, per esprimere quello che sono, per raccontarmi meglio, e quindi va benissimo così. Capito che tipo coraggioso Marco Masini? Assolutamente, no, ma appunto nella canzone della cover prende, è stato uno che si prende tutti i rischi del mondo. Tra l'altro voi critici eravate tutti, no, a parte me, io sono hashtag Tim Masini a prescindere, no, quindi ho qualche amico lì nella sala stampa, si capiva che tutti dicevano ma chissà, e invece li ha fregati, no, tutti. Ma poi dopo eravate tutti con soddisfatti, insomma, veramente. Comunque è sempre un festival di Sanremo, credo che la Raggi si sia presa dei rischi maggiori, nel senso che non è nulla di condizione, è vero. Marco, io non avevo ancora smesso di smettere e adesso sono anche spostata di un secondo. Vabbè, che brava. Ma ti ricordi che testa ti ho fatto con quella canzone? No, l'ho detto all'inizio, guarda, cioè, tu che dici che non ti riconosco mai i meriti. Ero insopportabile anche con l'altra, ero diventata una lagna, ne parlavo sempre. Beh, vedi, anche quella canzone è stata secondo me un primo inizio, nel senso io non sono uno che tutti i giorni va a raccontarsi in televisione, anche nei programmi magari. Vero, ecco, ma perché? Perché non mi interessa, perché preferisco avere qualcosa da dire, raccontare un mio passaggio e farlo quando il passaggio merita l'attenzione. Non per essere in televisione, non per essere visto. Cioè, c'è sproporzione tra la tua notorietà nazionale e la tua presenza televisiva. Questo mi affascina sempre nei cantanti, no? Gli artisti in genere. Ripeto, sono stato anche contattato mille volte per fare cose un po' più lontane da quello che sono io, cioè nel senso dalle varie reality, piuttosto che farm, non farm, isole, non isole, ma non, ho rinunciato anche a un bel po' di soldi, perché non credo che faccia parte della mia natura, nel senso io non voglio andare su un palco per farmi vedere, voglio andare su un palco per raccontarmi, per fare un discorso che io, un pensiero, esporre un pensiero che io ho, e solo attraverso la musica, non vedo altre strade che mi possano in qualche maniera gratificare. Peraltro l'hai anche difesa la televisione, però giustamente dice io no. Ma è giusto così. Mica ci sono solo io. Però, cioè nel senso, no, ho capito, va bene. Che meraviglia, io sono contentissima di aver avuto con noi Marco Masini, grazie Marco. Grazie a te. Grazie, in bocca al lupo. In bocca al lupo e soprattutto per il live, ti verremo a vedere, grazie. Vi aspetto, ciao. Grazie a tutti, ciao. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Allora, l'avete riconosciuta, per chiudere questa puntata di Radio Tube, molto sanremese, molto inevitabile sanremese. Questa è la canzone di Fiorella Mannoia? Sì, ma prima... Ma l'ha cantata Michele Bravi? No, veramente le ha cantate tutte. Le ha cantate tutte, beh, quasi lui da Bravo. Tutte. Sì, da Bravo, lui ha detto quelle che mi vengono bene. Meno peggio. Meno peggio. Allora, da Bravo YouTuber, perché sì. Lui è anche un grande YouTuber. Sì. Ha fatto un video di 3 minuti con un megamix. Condensato, un megamix che è perfetta come chiusura di questa puntata. Esatto, andatela a sentire, l'ha twittato qualche giorno fa, lui è veramente molto molto bravo. 3 minuti di tutto Sanremo condensato. Ovviamente finisce con Occidentali Scarma, come siamo partiti noi, ma quindi ci accompagnerà a lungo. Ci accompagnerà a lungo per invece per questo sabato. Fino a abbiamo Escita, finito. Pare. Certo, lo portiamo a Kiev. Eurovision, Escita, lo dico per Eurovision. Chi non è esperto come me dell'Eurovision. Momento dei ringraziamenti. Grazie a Cristian Goldoni. Yes, in redazione e in regia Filippo Aureggi, che ci ha dato una mano a confezionare, a mandare in onda e a portare a termine. Marta Cagnola, certo. Di Bellasio vi salutano. Alla prossima. E al prossimo Fate sabato. Bravi. Se potete, ciao.